Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi, ultima puntata della stagione 2019-2020, chiuderemo in bellezza guardando al futuro, nella speranza soprattutto di lasciarci alle spalle questi mesi bui per ripartire già dal prossimo autunno con una vita normale e soprattutto mobile. Lo faremo con la storia di una studentessa Erasmus che sta concludendo proprio in questi giorni il suo periodo di scambio universitario a Madrid, in Spagna. Con lei cercheremo di guardare con ottimismo ai mesi che vi aspettano dopo l'estate, affinché tutti voi giovani all'ascolto possiate tornare a costruirvi un profilo davvero globale tra studio, lavoro e impresa all'estero. Per chiudere la stagione abbiamo deciso di portare in onda alcuni dei protagonisti della trasmissione di questi ultimi mesi. Cominceremo con le segnalazioni di Federico Fabiani, sempre puntualissimo nell'indicarvi opportunità di lavoro e tirocinio in Europa e nel mondo. Proseguiremo con Alessio Romeo e le sue dritte sui trend del momento nel mercato dell'impiego a livello globale. E chiuderemo infine con i veri protagonisti di questo programma, voi ascoltatori. Lo faremo con le vostre lettere, le vostre richieste di informazioni e consigli pratici per una vita all'estero. Tempo dunque di volare in Spagna per l'ultimo viaggio virtuale della stagione insieme a Generazione Mobile. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce lo fornisce l'ultimo QS World University Ranking e ancora per il nono anno consecutivo il Massachusetts Institute of Technology, la migliore università a livello globale. I primi tre atenei sono tutti americani, l'MIT è seguito dalla Stanford University e dall'Università di Harvard. Il primo ateneo del Regno Unito e in Europa è l'Università di Oxford, che scende però al quinto posto. La sua concorrente connazionale, l'Università di Cambridge, rimane al settimo posto. La migliore università dell'Europa continentale è l'ETH di Zurigo, che mantiene il sesto posto. Le due migliori università asiatiche sono di nuovo entrambe basate a Singapore, la National University of Singapore, undicesima, e la Nanyang Technological University, che scende al tredicesimo posto. Bene, è il momento di passare a Toolbox, dove prosegue la collaborazione con il portale Scambi Europei. Ogni due settimane segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi anche oggi Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate da Scambi Europei. L'Agenzia Europea dei Medicinali offre due volte all'anno uno stage retribuito di massimo 10 mesi a studenti o laureati, con l'opportunità di lavorare nel settore del controllo e della valutazione dei medicinali presso il suo ufficio di Amsterdam. L'inizio di questi stage è previsto per ottobre e dureranno fino a luglio 2021. Il percorso formativo prevede un tirocinio a tempo pieno di 40 ore alla settimana oppure un tirocinio part-time combinato con un programma Erasmus Plus o un dottorato di ricerca. Nel caso del tirocinio a tempo pieno, la retribuzione prevista è di 1.360 euro al mese, più un contributo per i viaggi di andata e ritorno. I requisiti per candidarsi sono la conoscenza dell'inglese, almeno ad un livello C1, ed essere un neolaureato, oppure uno studente universitario all'interno di un programma Erasmus Plus o in un percorso di dottorato. Eurocities è un'organizzazione fondata dalle più grandi città europee come Barcellona, Milano e Francoforte, che attualmente comprende circa 140 città partner e lavora per rafforzare l'importante ruolo dei governi locali nel panorama europeo. Attualmente è alla ricerca di tirocinanti per il proprio ufficio di Bruxelles per stage della durata di 6 mesi a partire da settembre. I tirocinanti selezionati lavoreranno nelle seguenti aree: sviluppo economico, servizi pubblici, appalti pubblici e investimenti a lungo termine. È richiesta una laurea triennale o magistrale, preferibilmente in ambito economico o sociale, una buona padronanza di Microsoft Office e un'ottima conoscenza della lingua inglese. È prevista una copertura per le spese di soggiorno fino a 200 euro al mese, secondo la legislazione belga, un rimborso delle spese di trasporto pubblico locale, un'assistenza mensile per i costi di vitto e un numero di cellulare belga. La scadenza per presentare la propria candidatura è domenica 5 luglio. La delegazione dell'Unione Europea presso le Nazioni Unite ricerca dei tirocinanti per un periodo di 5-6 mesi, presso la propria sede di Ginevra, in Svizzera. Gli stage inizieranno a settembre 2020 e sono rivolti a giovani laureati con un'ottima conoscenza dell'inglese. Lo stage si svolgerà presso la sezione diritti umani della delegazione europea a Ginevra, la sezione che si occupa di temi e problematiche relative ai diritti umani nel mondo. I tirocinanti avranno la possibilità di comprendere il lavoro diplomatico della delegazione, scoprendo come questo rappresenta gli interessi europei presso l'Ufficio delle Nazioni Unite. Per i tirocinanti è previsto un contributo mensile a copertura delle spese di soggiorno e la scadenza per inviare le proprie candidature è il 28 giugno. L'ESMA, che è l'autorità indipendente dell'Unione Europea che si occupa della protezione degli investitori e supervisiona la stabilità finanziaria, è ciclicamente alla ricerca di tirocinanti. Attualmente sono previsti vari stage presso la sua sede di Parigi, con una durata variabile tra i 6 e i 12 mesi, in ambito legale e finanziario. Sotto la costante supervisione di un tutor e in base al dipartimento scelto, gli stagisti avranno la possibilità di occuparsi di una serie di mansioni, tra le quali assistere il proprio dipartimento nell'attività quotidiana, redigere e revisionare vari documenti, effettuare ricerche e analisi di fonti, leggi e regolamenti e fornire supporto amministrativo. Sono previste due tipologie di stage. Uno, undergraduate, per studenti universitari in corso, che prevede una retribuzione mensile di 1.100 euro, e uno, graduate, per laureati, che prevede una retribuzione mensile di 1.600 euro. Per tutte le informazioni, www.scambieuropei.info. Bene, è il momento ora di conoscere la testimone della settimana. Si tratta di una studentessa Erasmus 23enne che ha trascorso il proprio periodo di scambio universitario all'estero in uno dei momenti più difficili della storia recente e lo ha fatto in una delle città più colpite dalla pandemia, Madrid. Oggi Gemma è qui con noi per offrirvi preziosi consigli pratici su come affrontare la sempreverde esperienza Erasmus. Buon pomeriggio, Gemma Bassani. Buon pomeriggio a voi. Gemma, il tuo Erasmus inizia lo scorso settembre a Madrid ed è ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni lascerai la capitale iberica. Allora, vogliamo fare un rapido bilancio di questa esperienza? Allora, l'esperienza è positivissima, ovviamente. E un periodo Erasmus è un'esperienza che ti cambia la vita e io sono felicissima di tutte le cose che ho fatto. Ovviamente inutile dire che c'è stata una breve interruzione ai piani che uno poteva avere nel corso di questo anno. E infatti, ecco, Gemma, ti fermo subito perché tu hai vissuto una mobilità particolare in una città particolarmente colpita dalla pandemia. Come è stato questo Erasmus ai tempi del coronavirus a Madrid? Certamente è stato diverso dalle aspettative, perché ti ferma un po', ti ferma i piani, ti toglie qualche mese di progetti che magari potevi aver fatto, però dall'altra parte ti fa fare esperienze che sicuramente non avevi messo in conto, quindi convivere 24 ore su 24 con persone con cui magari non avevi così tanta confidenza. O io, per esempio, studiando medicina, essere in un altro paese con un problema sanitario è una questione interessante anche dal punto di vista proprio di studi. La cosa interessante, ora possiamo dire, appunto, sei studentessa in medicina. E faccio un passo indietro, perché hai scelto Madrid per l'Erasmus? Io ho avuto modo di conoscere la città l'anno precedente e mi era piaciuta tantissimo, mi era sembrata una città vivissima. E quindi da quel punto di vista la città di per sé mi chiamava moltissimo l'attenzione. E poi l'università che ho scelto in particolare ha un piano di esercitazione in ospedale molto più ampio magari del sistema italiano a cui siamo abituati, quindi noi studenti di medicina siamo sempre attratti da questo aspetto di poter fare tante ore in ospedale. Facciamo adesso un rapido excursus pratico sulle modalità di accesso ad Erasmus. La prima cosa da scrivere subito dopo l'uscita del bando qual è? Allora, i bandi probabilmente cambiano un po' da università a università, però in generale tutti ti richiedono una lettera motivazionale. E nella lettera motivazionale tu devi spiegare perché vorresti, ti piacerebbe fare un'esperienza Erasmus e soprattutto devi specificare perché in quella città e in quell'università. In generale io consiglio eventualmente di informarsi su internet, che al giorno d'oggi è molto facile, su attività, eventi o organizzazioni che magari sono presenti nella città e nell'università ospitante, che quindi possono motivare ulteriormente la tua partenza. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Ho scoperto che il tempo libero è la più grande ricchezza. Scarica l'app Mobile Banking di Unicredit, così avrai più tempo per te. Scopri come poter vedere dall'app Unicredit i tuoi conti correnti con online banking attivo, anche di altre banche abilitate. È comodo e senza costi. Condizioni, modalità di adesione e banche abilitate su unicredit.it. Pubblicità, servizio dedicato agli aderenti a banca multicanale. Fogli informativi su unicredit.it e in filiale. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Gemma Bassani, studentessa 23enne che in questi giorni sta concludendo la propria esperienza Erasmus a Madrid. Con Gemma stiamo disegnando una vera e propria guida pratica su come affrontare l'esperienza più importante all'estero nel corso degli studi universitari, e lo stiamo facendo calibrandola su uno dei paesi più attrattivi in assoluto a livello europeo per i nostri giovani. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Che informazioni in breve bisogna fornire nel bando di iscrizione? Allora, appunto, bisogna fare la lettera motivazionale, poi molte università chiedono anche un curriculum e una simulazione provvisoria di un learning agreement e poi ovviamente il tuo livello di lingua, che dovrai certificare o con un certificato precedente di qualche degli enti certificatori, oppure presso la tua università di partenza puoi fare una prova di lingua che in genere viene accettata. Un punto molto importante, lo hai anticipato, è il cosiddetto learning agreement. In brevissimo, cos'è e come costruirlo? Allora, il learning agreement è sostanzialmente un patto che si fa tra le due università, che serve a te studente per avere la certezza che quando tornerai poi a casa, diciamo, ti verranno riconosciuti senza troppi problemi gli esami che hai sostenuto nella università di arrivo. Questo quindi consiste nel decidere quali esami sostenere una volta arrivato nella nuova destinazione e chiedere alla tua università di partenza se te li riconosceranno in sostituzione degli esami che avresti tu nel piano di studi. La vita universitaria a Madrid, Gemma, quali differenze hai notato nelle modalità di insegnamento ed esame rispetto all'Italia? Beh, la concezione dell'università spagnola da un certo punto di vista è abbastanza diversa dall'università italiana, nel senso che assomiglia un po' di più alla scuola superiore, dove hai molti esami in un tempo ravvicinato, non puoi scegliere tu le date degli esami come invece facciamo noi in Italia con gli appelli, e quindi la difficoltà maggiore per noi studenti italiani è stare al passo, cioè giorno per giorno con le lezioni, con lo studio. E in un flash ti chiedo, a proposito della vita a Madrid, come cercare casa e dei siti da consigliare, in quale zone soprattutto? Allora, casa Madrid è difficile da trovare, non lo nascondo perché c'è moltissimo mercato nella città e quindi sono spietatissimi. E quindi io consiglio caldamente di cominciare a cercarlo prima, ci sono tante pagine su internet, alcune anche consigliate proprio dalle pagine dell'università con cui magari possono avere convenzioni, quindi consultare un attimo prima eventualmente la pagina della propria università se può avere qualche sconto. Ci raggiunge ora in linea Claudia Peritore, capo unità istruzione superiore di Erasmus Plus. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Claudia, innanzitutto bentornata, e iniziamo dicendo che secondo i dati della Col 2018, 40.000 studenti italiani sono partiti per studio o tirocinio Erasmus, 2.500 dei quali studenti di medicina. Oltre un quarto di questi hanno scelto la Spagna. Quali sono le città e le università spagnole che maggiormente attirano i nostri studenti e tirocinanti Erasmus? La Spagna attira tanti nostri studenti, quindi anche nel caso di medicina sono tanti gli studenti e studentesse che scelgono questo paese. Le principali università ospitanti sono quelle di Siviglia, Granada, Valencia, sono quelle che accolgono il maggior numero di studenti italiani. Vale anche la pena ricordare che però nella top 10 degli istituti europei che ospitano studenti italiani ben 5, quindi la metà sono spagnoli, proprio a conferma del grande potere di attrazione di questo paese. Claudia, ovviamente è stato un Erasmus segnato dalla crisi pandemica, e vorrei guardare da un lato al passato e dall'altro al futuro. Al passato, come avete garantito il regolare svolgimento dell'Erasmus agli studenti che poi, come Gemma, sono rimasti fuori dall'Italia? Alcuni sono rientrati, altri invece sono rimasti. Eh sì, esatto. Come lei, infatti, circa il 59% degli studenti italiani che si trovavano in mobilità in quel periodo è rimasto, ha deciso di proseguire le attività in situ e quindi di rimanere presso il paese ospitante. Diciamo che è un dato che va contro qualsiasi previsione. Il supporto principale è stato garantito da una rete salda costituita in primis dagli uffici relazioni internazionali che ringrazio, insieme all'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea e le associazioni degli studenti come ad esempio Erasmus Student Network. Come Agenzia Nazionale quindi siamo state costantemente operativi cercando di fornire tutte le informazioni utili per gli studenti che si trovavano all'estero in un momento così difficile, dovendo anche prendere una decisione difficile di proseguire nell'attività o rientrare in Italia in un momento in cui i collegamenti non c'erano, erano complicati. L'emergenza non è ancora passata, sappiamo tutti, la situazione è in evoluzione costante, si può dire quotidiana. Esatto. Guardando a settembre, quei rischi di una seconda ondata, consigliate, incoraggiate i ragazzi a partire, insomma, che Erasmus sarà quello del prossimo anno accademico? Erasmus certamente non si ferma, le frontiere si stanno riaprendo progressivamente, le attività didattiche saranno fondamentalmente a distanza anche nel prossimo semestre, ma vengono reintrodotte delle attività in presenza in modo progressivo e graduale. Quindi gli studenti hanno la possibilità di intraprendere la propria esperienza Erasmus. Chi a breve si deve laureare per il prossimo semestre, quindi l'ultimo momento per svolgere un'esperienza così bella nel proprio percorso accademico, può farlo. Il programma Erasmus ha previsto la possibilità di svolgere la mobilità. Erasmus sembra quasi un ossimoro dire la mobilità in forma virtuale, ma si può iniziare in modalità virtuale e poi completarla, se possibile, con una componente fisica. Grazie a Claudia Peritore e abbiamo la nostra domanda di rito per Gemma Bassani, il primo consiglio pratico che dareste a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero. Il primo consiglio, che forse non è troppo pratico, ma forse sì, smettete di pensare di andare a studiare all'estero e accogliete l'idea definitivamente, perché non ve ne pentirete assolutamente. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna oggi a tracciare il quadro delle più interessanti offerte di impiego attualmente aperte a livello internazionale Alessio Romeo, fondatore di Face for Job e nonché esperto in digital innovation e processi di HR transformation. Ascoltiamo allora cosa ha da dirci. Per questo ultimo appuntamento dell'anno e dalle porte dell'estate, che sempre riserva grandi novità da un punto di vista lavorativo, ritorniamo a parlare dei giovani, con le offerte di lavoro più diffuse per chi appunto è alle porte della laurea o in possesso del titolo di studio da poco e vuole provare a valorizzare proprio le competenze acquisite durante il percorso accademico formativo. E allora, rispetto allo scorso anno, questa volta salgono in testa i giovani laureati di indirizzo tecnico tra i più ricercati, soprattutto indirizzo informatico, profila ICT e ingegneria, scalzando i neograduati in economia e diritto alla vigilia dei mesi più caldi dell'anno. Un trend che dopo due anni aveva visto sempre profili economici più ricchi di opportunità, ma che in questo 2020 appunto passano in secondo piano, sicuramente conseguenza del post-Covid che vedrà il processo di digitalizzazione ancora più sprintoso di prima. Citando la top 10 delle aree geografiche a cui guardare con attenzione per collocarsi più facilmente di altre in tali ambiti, abbiamo il Nord Europa al primo posto, seguita da Stati Uniti, Singapore, per poi tornare in Europa con la Germania. Continuiamo con il Sud America, Brasile e Argentina, quindi Spagna, Francia ed infine Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. Tanta Europa sulla cresta di questa onda occupazionale globale dedicata ai giovani. E allora, come di consueto, andiamo a scoprire un campione di aziende del momento che assumono giovani talenti in tutto il mondo ed hanno rinfrescato le proprie sezioni careers in questi giorni. Iniziamo con le Big Four, rappresentate da Ernst & Young, Deloitte, KPMG e PwC, i colossi della consulenza che assumono in tutte le country del mondo con migliaia di opportunità disponibili per neolaureati in ambito legal, fiscal, ma anche profili tecnici in ambito informatico, artificial intelligence, RPA e liberi professionisti. Procter & Gamble, colosso industriale americano di beni di consumo con centinaia di migliaia di dipendenti, che assume costantemente neolaureati in tutti gli ambiti suddetti, più in ambito tecnico e in ben 10 differenti country europee e Sud America. Siemens, con posizioni aperte per neolaureati tecnici con un focus sempre più intenso sulle nuove tecnologie, specialmente nell'applicazione di robot e stampanti 3D, con ruoli che vanno dall'engineering, manufacturing, research and development, IT, sales and marketing and operations. La Pirelli dedica un'intera sezione della pagina careers alle graduates opportunity, con un percorso di formazione super interessante all'interno dell'azienda ed in giro per il mondo presso tutte le sedi dove vengono trattate le varie linee di prodotto. La Vivaldi Group, azienda leader nel settore dell'Hi-Fi e della audio professional, cerca parecchie giovani figure a Düsseldorf, Amburgo, Londra, Monaco e New York. Infine, rapidamente a chiusura, i nomi di un altro breve gruppo di aziende internazionali che assumono a livello global come ABB, Nike, Red Bull, Deezer, Chanel e Airbus. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato accanto ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna anche questo mese l'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella email generazionemobile@radio24.it. Lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere oltre confine. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci in modo da poter girare loro queste dritte. Oggi, ultima puntata stagionale, abbiamo deciso di farvi riascoltare alcune delle lettere più interessanti che ci avete inviato nel corso dell'ultima stagione. Buongiorno, sono Giulia. Ho 39 anni, lavoro nel settore navale dalla progettazione di interni a seguire i cantieri. Volevo chiedere, per un'esperienza all'estero in questo settore, quali sono i siti che possono essere d'aiuto? Grazie della cortesia. Vi seguo sempre, con la speranza di poter anch'io chiamare ed essere dall'altra parte. Giulia. Buongiorno, seguo quasi settimanalmente la vostra trasmissione. Sono un ragazzo di 24 anni che studia all'ITS Logistica di Padova e volevo sapere, vista la mia voglia di lavorare all'estero in un ambiente più meritocratico e dinamico, se ci sono storie di ragazzi come me che hanno trovato una collocazione oltre confine, in seguito a un percorso di studi specialistico come il mio. Grazie per ogni aiuto e complimenti per la trasmissione. Silvio. Salve, ho sentito il vostro servizio riguardante il lavoro nelle start-up a Berlino. A questo proposito, mi è venuto in mente che potrei chiedervi qualche consiglio. Io e il mio ragazzo ci stiamo trasferendo a Berlino. Siamo entrambi produttori di musica elettronica e a livello di titoli di studio, lui è un ingegnere del suono e io tecnico audiovisivo. Ci piacerebbe molto poter lavorare nel settore musicale o inerente a produzioni audiovisive, quindi siamo in cerca di qualsiasi dritta che possa aiutarci o indirizzarci meglio al riguardo. Startup creative, stage, lavori in generale. Io ho 23 anni e lui 27. Parliamo molto bene l'inglese, l'italiano, io anche il serbo e lui il greco. Grazie per l'attenzione. Mina. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate anche di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui l'ultima puntata stagionale di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Fate bene ora attenzione, a partire da sabato prossimo 4 luglio e fino a sabato 25 luglio andranno in onda ben 4 puntate speciali estive con alcune delle storie più interessanti che abbiamo trasmesso nel corso di questa ultima stagione assieme. Il nostro appuntamento ovviamente non cambia, vi aspettiamo sempre alle 13.30 e sempre su Radio 24. Ad agosto ci prenderemo una pausa per risentirci poi dalla prima settimana di settembre. Sempre con nuove storie, nuove testimonianze e nuovi imprescindibili consigli pratici per formarvi all'estero. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.